1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:22 minuti, ben ritrovati. Sveglia, sveglia Italia! Siamo pronti a leggere i giornali con voi e vi ricordo che oggi parleremo alle 8:15 di che cosa? Di questa vicenda dell'IVA. Allora, l'IVA non si trova un miliardo per scongiurare l'aumento dell'IVA, ma davvero è così? Noi l'abbiamo titolata provocatoriamente a caccia del miliardo che manca. Magari qualcuno ci proporrà qualche soluzione, anche voi cari ascoltatori, oppure gli ospiti. Avremo Sergio Rizzo del Corriere della Sera, avremo l'economista Michele Boldrin con noi, avremo il presidente dell'Unione delle Province Italiane Antonio Saitta, che lui più che altro dovrà difendersi dal fatto che molti dicono, ecco, tagliamo le province e lì troveremo i soldi. Ah, le province, a proposito, oggi è venerdì, si chiude la 20ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché si chiude oggi la 20ª settimana decisiva per la riforma elettorale, 20ª di questa legislatura, se cumuliamo quelle passate, insomma. Il conto è perso. I giornali, andiamo a leggerli. È venerdì 20 settembre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulle borse, mercati, rally in Europa, borse ai massimi da 5 anni e lo spread dei BTP sotto i bonus, dunque sotto quelli spagnoli. E il Papa, e qui da qui apriremo la rassegna stampa, il Papa con la storica, a suo modo, intervista rilasciata a Civiltà Cattolica dei gesuiti. Il Papa è un gesuita, lo ricordiamo, è l'apertura per altri quotidiani. Le parole rivoluzionarie del Papa, così apre il Corriere della Sera. Per il Messaggero, il Papa apre su divorzio e aborto. Libero il Papa, vi svelo i miei segreti. Avvenire, tempo di curare le ferite, la certezza di Francesco, Dio è nella vita di ciascuno di noi. Anche il Manifesto apre sul Papa, il titolo è Il Papa mobile, non possiamo insistere solo su omosessuali, aborto e contraccettivi. E anche il Secolo XIX, aborto, la lezione del Papa. E tra poco le sentiremo le parole del Papa rilasciate in questa intervista. Repubblica invece sulla politica, Berlusconi non è un perseguitato, è la frase del premier Letta. Il Giornale, tangenti sulle tasse, i ladri di Equitalia, questo è il titolo di prima pagina. Per La Stampa, Letta stoppa Berlusconi. Il Fatto Quotidiano invece è un'intervista, parla il maggiordomo di Berlusconi, filo diretto con Napolitano. Quest'articolo, ho in mente qualcosa per il finale di rassegna stampa. Comunque, l'Unità con la crisi, addio riforme, questo è il titolo di prima pagina. Allora, voglio partire appunto dalle parole storiche, nel senso che intanto è storica l'intervista che Papa Francesco ha rilasciato a Civiltà Cattolica e che è riportata un po' da vari giornali oggi. La Chiesa non sia ossessionata da divorzio, gay e aborto. Le parole che faranno più discutere sono proprio quelle sugli omosessuali e divorziati. Dice Francesco, non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido protettore della nostra mediocrità. E quando l'intervistatore, che è il direttore di Civiltà Cattolica, vale a dire il gesuita Spadaro, gli chiede dei cristiani che vivono in situazioni non regolari per la Chiesa o complesse e parla di divorziati risposati, coppie gay, ecco la risposta del Papa. A Buenos Aires ricevevo lettere di omosessuali che sono feriti sociali perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia sempre condannati, ma la Chiesa non vuole fare questo. E ancora, la religione ha il diritto di esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi liberi. L'ingerenza spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi chiese se approvavo l'omosessualità e io risposi con un'altra domanda. Dimmi, Dio, quando guarda una persona omosessuale, ne approva l'esistenza con affetto o la respinge condannandola? Bisogna sempre considerare la persona. Papa Francesco che poi parla anche del suo atteggiamento riguardo alla politica, dicendo non sono mai stato di destra, parla anche dell'aborto e anche qui parole molto pesanti. Questa è la grandezza della confessione, valutare caso per caso, discernere qual è la cosa migliore da fare per una persona che cerca Dio, spiega Francesco. Il confessionale non è una sala di tortura, ma luogo della misericordia nel quale il Signore ci stimola a fare meglio che possiamo. Penso alla situazione di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito. Poi questa donna si è risposata. Adesso è serena con 5 figli. L'aborto le pesa enormemente, è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. Cosa fa il confessore? Ecco, insomma, parole che sono tradotte sui giornali con apertura su questi temi, vale a dire divorzio, gay e aborto, da parte del Papa, che comunque dice su questi temi, e i temi anche come aborto, matrimonio omosessuale, uso di metodi contraccettivi, dice: io non ho parlato molto di queste cose, mi è stato anche rimproverato, ma quando se ne parla bisogna farlo in un contesto, il parere della Chiesa del resto lo si conosce e io sono figlio della Chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione. Ecco, questo è un altro passaggio chiave, come dire, non è che il Papa, come qualcuno già si può spingere oltre, si pone fuori alla Chiesa, semplicemente dice: ne ho parlato poco, ma su questi temi io sono figlio della Chiesa e dunque come la pensa la Chiesa è abbastanza chiaro. Beh, mettere in contraddizione queste parole anche sull'omosessualità dette dal Papa con quelle pronunciate da Vladimir Putin ieri, presidente della Russia, che tra l'altro riceveva Prodi, e ricevendo Prodi ha detto: beh, Prodi, ovviamente in russo, insieme a Silvio Berlusconi è il mio più grande amico in Italia. A quel punto il Corriere della Sera fa notare che Prodi ha iniziato a dire come dire, l'accostamento con Berlusconi non deve essere stato molto piacevole per Romano Prodi. Comunque Fabrizio Dragosei sul Corriere della Sera racconta: Putin, se Silvio fosse gay non lo toccherebbero, così ha detto Vladimir Putin. Berlusconi viene processato perché vive con delle donne, se fosse un omosessuale nessuno lo avrebbe toccato con un dito. Questa è la frase di Putin, che diventa anche un'intera pagina addirittura su Libero: se fosse gay nessuna condanna al cavaliere. Ma io, cari italiani, oggi ho avuto un sussulto, prima della pubblicità ve la devo raccontare, tanto sono solo poche parole, ahimè poche parole. È rispuntato Adriano Celentano, io lo sognavo, lo attendevo da tempo, con le sue frasi urlate, perché scritte in maiuscolo. Ahimè, Adriano Celentano però ha comprato una pagina di pubblicità sul Corriere della Sera per protestare contro il fatto che domani ci saranno 13 navi, grandi navi, dentro alla laguna di Venezia che passeranno, e quindi questo per lui è uno sfregio nei confronti di Venezia, nei confronti di una città storica, una città d'arte. È una polemica molto dibattuta, una questione annosa. Io speravo in un lungo articolo di Celentano da leggere, ma ci dobbiamo accontentare a una pagina del Corriere della Sera comprata con il suo volto, Adriano Celentano, e sole queste 3 righe. Domani non sarà un bel giorno per il nostro paese, anche se ci sarà il sole. Con l'ignobile sfilata delle 13 navi dentro la laguna di Venezia si celebra l'eterno funerale delle bellezze del mondo. Adriano Celentano. Una pagina di pubblicità sul Corriere, ma sono in grande attesa che prenda invece carta e penna e scriva una di quelle memorabili pagine di cui è capace, con tutte le sue maiuscole, da poter leggere in rassegna stampa. Prima o poi lo farà. Quest'estate l'ha fatto molto quando non ero in onda, ma spero che torni a farlo da quando sono tornato in onda. Le schermaglie politiche continuano, il tema è quello dell'IVA, ma non solo. Ieri Enrico Letta, il premier, ha detto: non ci sono perseguitati dalla magistratura in Italia. Ovviamente si riferiva a Silvio Berlusconi, ha detto: la giustizia in Italia funziona, e su questo magari gli italiani avrebbero qualcosa da ridire. E poi ha utilizzato questa immagine: non sono mica Joe Condor, che era il protagonista di una serie di Carosello della Nutella anni 70. Il Messaggero, per la verità, con Mario Aiello fa anche un pezzo di colore a pagina 3 a dire: ha scelto l'eroe sfigato di Carosello, dunque non una scelta molto azzeccata. In realtà anche il Messaggero, però, con Mario Aiello scrive: se lui è Joe Condor, il gigante buono, chi sarebbe? Berlusconi, naturalmente. In realtà proprio Enrico Letta ha detto: non ci ho scritto Joe Condor, quindi ha detto il contrario, non sono mica Joe Condor. Comunque, insomma, per il Messaggero è stata una scelta inopportuna quella di citare l'eroe sfigato che nel Carosello veniva veniva sconfitto dal gigante, che in questa metafora del Messaggero sarebbe a questo punto Silvio Berlusconi. In ogni caso, al di là del colore, c'è una svolta, questa segnalata per esempio in un retroscena di Repubblica a firma Goffredo De Marchis. La svolta sarebbe proprio questa fase d'attacco che ha annunciato Enrico Letta. Goffredo De Marchis racconta sotto il titolo L'altolà del Premier in prima pagina di Repubblica: il cambio di passo è obbligato, per accelerare diventa necessario un altolà. Ballare tutti i giorni la rumba per gli strappi di Berlusconi è ingestibile. Il PDL sembra ormai il partito della spesa allegra, il partito dei sedicenti liberali, e io voglio incalzarli su questo. Queste sono le parole attribuite ad Enrico Letta da Repubblica, e dunque l'avvio di questa fase 2 delle larghe intese sarebbe un avvio di un attacco, sarebbe quel giocherò all'attacco perché non sono mica giocondo, risponderò a Silvio colpo su colpo. D'altra parte si prepara che cosa? Racconta anche il Corriere della Sera con Francesco Verderami a pagina 9, la prossima battaglia è quella dell'IVA, è innegabile. Il Cavaliere prepara già la battaglia sull'IVA, scrive appunto Francesco Verderami. E se è vero che in politica conta ciò che appare, allora poco importa se Berlusconi in fondo non ci crede. Agli atti resta che il Cavaliere ieri ha indossato i panni del leader responsabile, quelli di Silvio lo stabilizzatore, una tattica adottata appena un anno fa. Enrico Letta l'ha intuito, e siccome io non voglio fare la fine di Monti, questa è la versione di Letta, il Premier ha inteso farlo sapere per tempo e pubblicamente al Cavaliere con quello "io non ci ho scritto Giocondor" in testa. Sta di fatto che, secondo queste analisi, Berlusconi ieri appunto si è posto come il pacificatore, colui che in qualche modo ha rafforzato le larghe intese, ma tutto ciò puzza di bruciato, almeno negli occhi di Enrico Letta e del PD. Ed ecco da qui quel titolo, giocheremo all'attacco, che è anche il titolo del Sole. A pagina 12 il Premier difende i magistrati e avverte il PDL, non ho scritto Giocondor. Anche un ministro del PD, Graziano Del Rio, ministro della coesione territoriale, intervistato da Alessandra Longo su Repubblica, ribadisce questo: non è il Cavaliere a dettare le priorità del governo, si decide insieme, basta ricatti. Non esistono priorità decise da un partito imposte agli altri, perché ieri Berlusconi ha detto rimaniamo nel governo finché si rispetta il nostro programma. E risponde Del Rio: un governo di coalizione può lavorare serenamente solo se si fa in squadra, tutti rinunciano a qualcosa e nessuno impone agli altri il suo punto di vista. Anche il PD ha un grandissimo senso di responsabilità. Le parole sulla sinistra e i magistrati che Berlusconi ha pronunciato nel video sono totalmente inaccettabili. È stato fatto un enorme passo indietro nel clima del paese. Avete insomma due visioni del mondo, chiede Repubblica al ministro Del Rio, e lui risponde: sicuramente io non considero la spesa sociale pubblica una spesa inutile, soprattutto in un contesto di forte disuguaglianza. Non va ridotta, ma va resa più efficace. Inoltre il ministro Giovannini sta lavorando a una misura presente in tutta Europa, vale a dire il reddito di inclusione sociale. Non sono temi da liquidare con le battute, come fa Brunetta. Insomma, tensioni, repliche. Ovviamente la domanda che molti italiani si pongono sullo sfondo, c'è sempre da dire: ma com'è possibile dunque che rimangano insieme due forze politiche messe insieme così, ma che litigano come quei marito e moglie che ogni giorno si pizzicano su tutte le questioni eppure vanno avanti? Ecco, matrimonio di interessi forse. In ogni caso, il tema che certamente emergerà da qui il 1 ottobre è quello dell'IVA. Allora, ieri il presidente di Confindustria Squinzi ha detto basta fare campagna elettorale su questo, sembra di essere continuamente in campagna elettorale, come scrive Nicoletta Picchio a pagina 8 sotto il titolo L'IVA basta campagna elettorale. Sta di fatto che ancora ieri schermaglie, per esempio il capogruppo del PDL alla Camera Brunetta, come racconta il giornale con Fabrizio Ravoni a pagina 8, ieri ha dato la sua ricetta dicendo: non si trova 1 miliardo di euro da qui al 1 ottobre per scongiurare l'aumento dell'IVA? Ebbene, Eccolo qui, rivalutazione dei cespiti d'impresa, rinvio delle spese di investimento programmate, anticipo dei pagamenti delle accise dovute a gennaio e da qui 1,5 miliardi, rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, 4 miliardi una tantum, vendita degli immobili, 1 miliardo una tantum, vendita delle partecipazioni azionarie, 1 miliardo anticipato dalla Cassa Depositi. Ecco, questa sarebbe per Brunetta una ricetta immediata, le proposte da porre a Saccomanni per scongiurare l'aumento dell'IVA. A proposito di Saccomanni, il ministro del Tesoro al momento non parla, ma secondo Paolo Russo sulla Stampa, pagina 6, l'avrebbe detto abbastanza chiaro: l'IVA al 22% oppure in alternativa torna l'IMU. E questo è ciò che il ministro ha detto. Siamo sotto il 3% del deficit, assicura per esempio il ministro dello sviluppo Zanonato, ma subito potremmo arrivare al 3,1%, dice invece il sottosegretario all'economia Baretta. E allora, in questo anche gioco e balletto dei numeri, mentre l'Europa ci guarda, perché questo rapporto del 3% è un rapporto secondo i parametri di Maastricht da rispettare, ecco che Saccomanni, secondo la Stampa, avrebbe detto al recalcitrante Popolo della Libertà, o Forza Italia come lo volete chiamare, aumenta l'IVA o torna la seconda rata dell'IMU sulla prima casa. Senso veramente di un impazzimento della politica. Per esempio, voi ci credete all'annuncio, non perché sia un annuncio che per forza debba essere vuoto, ma perché c'è un'esperienza decennale, pluridecennale del passato di annunci di questo tipo che non hanno portato poi a niente. L'annuncio Destinazione Italia è il piano, quello di una grande campagna di privatizzazione. Ecco, ci credete, cari italiani? Poi siamo pronti ovviamente a ricrederci, a dire: oh, finalmente questa cosa che è stata annunciata 5.833 volte è stata fatta. Sta di fatto che per ora c'è l'ennesimo annuncio Destinazione Italia. Ha annunciato il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, partirà un tour mondiale che partirà da settimana prossima a New York, con Zanonato che dice: andremo in giro per il mondo in un road show internazionale per andare in tutte le principali piazze finanziarie e portare il mondo in Italia. Portare il mondo in Italia. Attrarre investimenti e nel caso anche privatizzare. Se ci credete, questo è. Il dato di fatto per ora concreto è che gli italiani sono continuamente a contatto con la questione delle tasse. E allora, se c'è danno d'immagine peggiore di questo, ditemelo voi. Una delle società viste già con gli occhi storti, il naso arricciati, i sospetti, è in questo momento Equitalia. Che succede ieri? Episodio di cronaca, per carità, tutto da accertare, tutto da verificare, dobbiamo essere garantisti. 5 persone indagate, ipotesi di corruzione, tangenti per fermare Equitalia. Secondo quanto scrive tutti i giornali, ho letto il titolo del Sole 24 Ore, pagina 13, l'articolo di Ivan Cimmarusti e Marco Ludovico, bastava una tangente per bloccare i mezzi di riscossione coattivi di Equitalia o rateizzare un debito fiscale senza averne i requisiti. E con una mazzetta in più era possibile registrare all'INPS contributi in realtà mai versati, così da godere dei vantaggi tributari. Ecco il sistema di corruzione sistemico, dilagante, perpetrato nei confronti di dipendenti di Equitalia Sud ed è stato scoperchiato dal procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi, cioè l'accusa appunto che funzionari di Equitalia in cambio di tangenti facevano sconti sulle tasse da pagare. Ripeto, è tutto da accertare. Giustamente ci sono dirigenti, massimi dirigenti di Equitalia che vengono intervistati, come dalla Stampa viene intervistato Giancarlo Rossi, dirigente che dice: sono nel caso mele marce, noi siamo parte lesa, nessun dirigente è coinvolto, sono casi isolati. Va bene, ci vogliamo credere anche a questo, ma il danno d'immagine è epocale. E infatti su tutti i giornali: soldi per ammorbidire le verifiche Equitalia, così titola Avvenire; tasse scontate agli amici, 5 indagati a Equitalia, titolo al Messaggero; 2 pagine sulla Stampa, mazzette per ridurre i debiti, al setaccio le sedi Equitalia; mezza pagina sul Secolo XIX, mazzette favori in Equitalia, nei guai anche il capo di Genova. Questa è l'immagine che traspare oggi dai giornali. Davvero devastante. La cronaca. Ieri Repubblica denunciava questo concorso alla Sapienza di Roma in reparto cardiologia, dove con una mail erano stati annunciati i vincitori ancora prima che si tenesse il concorso pubblico. Oggi Repubblica torna su questa vicenda. Inchiesta interna sul concorso truccato. Il rettore Frati dice: se uno studente farà un esposto lo analizzerò e valuterò le eventuali conseguenze. Vabbè, è frasi di Prammatica. Comunque la vicenda è approfondita e ci sono anche il racconto di testimonianze. Per esempio anche il Fatto Quotidiano si butta su questa vicenda, intervista con Maria Gabriella Lanza a pagina 11, una specializzanda all'Università La Sapienza di Roma, studentessa di medicina, che racconta delle cose che, se vere, danno uno spaccato, per carità non è la prima denuncia di questo tipo, di un'Italia, ma io dico che bisognerebbe veramente ribellarsi a questo tipo di cose. Sentite qui. Se vuoi un posto devi aiutare il professore pure con il bucato. Sì, si inizia già al terzo anno. Prima di decidere che medico vuoi diventare, devi individuare un professore abbastanza importante, dedicargli i prossimi anni della tua vita 24 ore su 24. I passaggi in macchina sono il minimo. C'è anche chi è costretto a ritirare in lavanderia la biancheria del professore di turno. E il Fatto chiede: sì, come ha fatto quel ragazzo che accompagnava il professor Fedele in macchina? Certo, questo ragazzo ha tentato per 2 anni il concorso, poi al terzo tentativo è entrato, poverino. Non so quanto abbia speso di benzina. Non conta quanto studi, conta per quanto tempo lavori gratis in reparto, tutti i giorni, anche di domenica, durante le feste, di notte, senza alcun rimborso spese. È un ricatto. Loro ti promettono: al prossimo concorso tocca a te, e tu speri. Insomma, è già tutto deciso. Teoricamente, quando correggono il compito, non sanno a quale candidato appartiene, ma il punto è questo: hanno un modo per saperlo. Non credo ci sia un preaccordo tra commissione e candidato. Penso piuttosto che dopo l'esame la commissione contatti l'aspirante specializzando, che gli comunica l'argomento della sua prova. In questo modo gli assegnano il punteggio più alto. Queste sono cose che tutti sanno, ma nessuno ha le prove. Basta vedere i risultati degli ammessi. I voti sono assegnati con il bilancino. Insomma, uno spaccato incredibile. Per carità, sono state fatte puntate, inchieste, scritti libri sui presunti concorsi truccati, e non saranno tutti così nelle università italiane, ma si fanno queste cose, si fanno degli esposti, si fanno delle denunce e poi non succede assolutamente nulla, nulla. Succede qualcosa oggi invece per Belen, si sposa. E non è questo l'oggetto dell'articolo La Carta Costa, nonostante 3 giornali dedichino pagine a confetti, glamour e parata di VIP. Belen e Stefano oggi sposi, sono sul Quotidiano Nazionale. Oppure La Stampa, una pagina, lo show blindato della Cenerentola virtuale. O ancora su Libero, nozze country, balli fino all'alba per Belen e Stefano oggi sposi. Ci sarà anche Santiago, il figlio di Belen, che avrà un ruolo tutto suo, ci fa sapere Libero. Entrerà in chiesa da capo delle damigelle, non sulle sue gambe. Cosa vuol dire? Gliele tagliano? No. Ah no, non camminerà ancora. Non lo so. Vabbè, comunque c'è tutto stile country, e ci saranno anche le ballerine per le ospiti, così potranno togliere i tacchi tipo 28 e a un certo punto ballare con le ballerine offerte dagli sposi, messe a disposizione. Ma non è questo l'articolo che vince La Carta Costa. L'articolo che vince La Carta Costa di oggi è nettamente la prima pagina del Fatto Quotidiano, con una intervista. Parla per la prima volta, pensate, incredibile, dopo 25 anni di servizio, lo fa a Beatrice Borromeo e Ferruccio Sansa, il maggiordomo di Berlusconi. 2 pagine di intervista. Il titolo: Yogurt, Dudù e Pigiamino, i miei 25 anni accanto a Berlusconi. E sono stato con lui sempre, sempre. E ricordo le feste con Putin, con le guardie del corpo, russe e italiane che si sfidavano ad arti marziali. E le donne? No, mai, mai. A letto alle 11, potevamo averne a tantissime. Anzi, divento furioso quando leggo falsità. Non ha mai pagato nessuno per fare sesso Berlusconi. Anzi, Sentite davvero, maggiordomo, ero io a svuotargli le tasche della giacca ogni sera con manciate di numeri di telefono che le ragazze gli mettevano nella giacca. E poi gli preparo i vestiti. Guardate, dovreste sapere, centinaia di completi di caraceni e le cravatte a decine. Poi avrà 150 tute di cashmere blu solo qui a Roma. E poi Dudu. Dudu il cagnolino è un batuffolo, è bellissimo, lo tratta come un figlio il presidente, lo fa anche saltare sulle poltrone, tanto è più pulito di un umano. E la colazione? La colazione la porto a letto tutte le volte, a lui e a Francesca Pascale, fette biscottate e tè per lui e spremuta d'arancia fresca per lei. Due pagine così, sul maggiordomo di Berlusconi, ma chi se ne fotte? Ma Italia, rialzati! Italia, reagisci! Questa è la vera ribellione! Svegliatevi, reagite a queste cose qui. E ricordatevi anche, amici del Fatto Quotidiano, che la carta costa!